Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti, ben ritrovati dal Groove Master Studio di Radio 24 per la puntata numero 259 del Soundcheck, prova del suono che oggi torna a proporre del sano jazz, sonorità che abbiamo un po' dimenticato durante gli ultimi appuntamenti della domenica, e quindi alcuni appassionati di jazz se la sono anche un po' presa scrivendo insulti veri e propri al nostro indirizzo di posta elettronica, che è sempre soundcheck@radio24.it. Bene, torniamo ad ascoltare jazz. Ci sono delle nuove pubblicazioni che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, la prima della quale vi vorrei parlare è questo album intitolato Passion World, ovvero quinto album per la Concord, ma anche undicesimo della sua carriera per il vocalist americano from Chicago, Mr. Kurt Elling, vocalist molto amato anche dagli appassionati di vocalità jazz italiani, è stato più volte nel nostro paese, tra l'altro con questo album Kurt Elling vuole celebrare la sua passione per alcune mete importanti della sua carriera, proprio mete geografiche, perché con questo album sfoggia anche un po' le sue qualità di poliglotta e canta in tutte le lingue, passa dal portoghese brasiliano al tedesco al francese, celebra Cuba, ma non la nostra nazione, probabilmente in uno dei futuri album canterà anche in italiano. Fatto sta che Kurt Elling, vocalist molto elegante nel timbro e anche nel controllo della sua vocalità, riunisce in studio di registrazione Gary Versace al pianoforte e tastiere, John McLean alla chitarra, Clark Sommers al contrabbasso e il meraviglioso batterista Kendrick Scott e alcune special guest importanti come i trombettisti Arturo Sandoval proprio per celebrare Cuba, ma anche Till Bronner per celebrare la Germania. Poi ci sono Richard Galliano alla fisarmonica, il sassofonista Tommy Smith, insomma un album divertente, appassionato, forse non uno dei migliori della discografia di Kurt Elling, ma io vi voglio far ascoltare questa sua versione di Where the Streets Have No Name, dove le strade non hanno nome, brano che non appartiene al songbook tipico degli standard di jazz, bensì al repertorio di una band sicuramente più famosa di Kurt Elling. Sono gli U2 che hanno scritto proprio Where the Streets Have No Name, e questa è la versione contemporanea da Passion World di Kurt Elling, qui al Soundcheck di Radio 24. I want to run, I want to hide, I want to tear down the walls that hold me inside, I want to reach out and touch the flame. Where the streets have no name. Soundcheck. Il suono della musica. Puntualissimi dopo l'informazione, di nuovo in contatto con il Groove Master Studio per questa puntata del Soundcheck. Questo era il meraviglioso Terence Blanchard con la sua versione di Compared to What, un classico della soul music rivisitato da questo meraviglioso musicista, richiestissimo anche come compositore, che firma un nuovo contratto per la Blue Note Records e con E-Collective, questo il titolo della band che supporta Terence Blanchard, realizza questo album a cavallo, così come fanno tutti i musicisti di oggi, fra jazz, funk, R&B, blues e così via. Album intitolato, lo ripeto, Breathless, album che ci lascia senza fiato in alcuni momenti, così come mi ha lasciato senza fiato questo sassofonista tenore, che non è americano, non è italiano, non è francese, bensì israeliano, quindi magari non tutti lo conoscono, Eli De Gibri, non so la pronuncia esatta. Fatto sta che questo signore è nato il 3 maggio del 1978 a Jaffa e ha iniziato all'età di 7 anni gli studi della musica approcciandosi con il mandolino. Poi è andato a vedere lì a Jaffa un concerto di jazz, si è innamorato del sax tenore e quello poi è diventato il suo strumento, che lo ha portato addirittura a prendere una borsa di studio alla Berklee College of Music, naturalmente, e da Boston il passaggio a New York è quasi automatico, e lì ha studiato con Ron Carter, Benny Golson, Jimmy Heath, Clark Terry, i veterani del jazz, per poi suonare in concerto con i nuovi protagonisti della scena americana, dal chitarrista Kurt Rosenwinkel a Aaron Goldberg, Jeff Ballard, e oggi Eli De Gibri è una delle forze nuove del jazz newyorkese, con il suo sax tenore, il suo soprano, presenta con il suo quartetto il nuovo repertorio in questo album intitolato Cliff Hanging, album molto ben realizzato. Il brano che vi presento è What I'm Doing Here, cosa sto facendo qui? Eli De Gibri al soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Romantica composizione intitolata Watching You Sleep, guardandoti mentre dormi, brano scritto dal giovane prodigio del pianoforte francese Thomas Hennecot, album nuovo intitolato Feeders. Eh sì, un vero prodigio questo ragazzo, che a 3 anni suonava già il violino, a 6 anni è passato al pianoforte per poi iniziare a fare jazz dall'età di 10 anni con quello che diventò il suo mentore, il maestro del violino, il formidabile D.G. Lockwood, che lo ha svezzato musicalmente e gli ha dato la possibilità di potersi esibire in alcuni dei teatri più importanti di Parigi e di Francia. Il giovane Thomas Hennecot oggi è una star del jazz francese, molto seguito durante i suoi concerti di piano solo, molto seguito anche dalle ragazzine per questo suo aspetto, questo look da bel tenebroso. È nato nel 1988, Thomas Hennecot, qui presente al soundcheck con un'altra composizione che chiude la puntata di oggi, intitolata Letting You Go. Thomas Hennecot, ve lo raccomando, album delicato che potrà accompagnare le vostre serate in compagnia, scusate il bisticcio di parole, album intitolato Feeders, lo ripeto. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre qui su Radio 24, sempre a partire dalle 19:15 per il soundcheck. A tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telesforo.